Il titolo del mio intervento promette molto più di quanto io vi darò invece, il che naturalmente è anche una promessa di un intervento breve, e questo penso almeno sia un elemento positivo, data l'ora. Io vorrei semplicemente parlarvi di una fonte a lungo inseguita che dà alcune indicazioni nuove sul problema della collaborazione militare della Repubblica Sociale Italiana col Terzo Reich. Questo tema, come del resto in maniera molto interessante ha già sottolineato il dottor Schreiber poco fa, si collega al problema dell'internamento, in quanto un certo numero di militari italiani della RSI venne reclutato proprio fra gli internati. Questo anzi era uno degli obiettivi fondamentali attraverso il quale Mussolini voleva legittimare il nuovo Stato e il suo ruolo di alleato a fianco della Germania nazista. Sotto un altro punto di vista, invece, questo tema si collega al problema dell'epurazione, ovvero sia che cosa è avvenuto di tutti quegli italiani che avevano continuato a combattere con uniforme tedesca o nella Wehrmacht o nelle Waffen-SS. Questo secondo aspetto è ancora molto aperto, del resto lo sanno coloro fra di voi con i quali ho già parlato ieri, e potrebbe essere un elemento abbastanza interessante, un campo piuttosto fecondo per una ricerca futura. Per quello che mi riguarda, io ho appena cominciato ad occuparmi di questo problema. Penso che sia interessante che vi illustri questo fondo, anche perché se finora è stato inaccessibile a tutti quanti, per quello che mi è stato detto, io sono il primo che l'ha potuto consultare. Comunque, io adesso sto preparando la pubblicazione dell'inventario con una scelta di documenti e dopo questo passo l'archivio sarà accessibile a tutti e credo che potrà servire a coloro che si occupano di varie tematiche relative alla Repubblica di Salò, in particolare alla storia della guerra partigiana. Per quello che riguarda comunque il quadro generale della collaborazione militare della RSI col Terzo Reich, abbiamo una serie di informazioni di fondo che essenzialmente ci sono fornite da Deakin, che ha lavorato sui documenti italiani sequestrati agli alleati, e da Pansa, che ha lavorato sui notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana, almeno fino a luglio del 1944, che sono conservati alla Fondazione Micheletti di Brescia. E questi ci danno un quadro, che sostanzialmente questa fonte conferma, di un duplice fallimento dell'operazione militare fatta dalla Repubblica Sociale Italiana, un fallimento per quanto riguarda il reclutamento fra gli internati, un fallimento per quanto riguarda la leva in Italia. Al tempo stesso, le fonti che noi già conoscevamo attraverso questi due studi mostrano delle grosse lacune. Non sappiamo praticamente nulla di tutti quegli italiani che non combatterono con uniforme della Repubblica Sociale Italiana, bensì con uniforme tedesca. Il loro numero, come dirò fra un attimo, non era irrilevante, superava 100.000, anche qui poi ci sono varie valutazioni nel suo libro, fra l'altro il dottor Schreiber ha fornito alcuni elementi molto interessanti sul problema degli aderenti fra gli internati. E su di loro non sappiamo praticamente nulla. Io mi sono un po' messo in caccia di questi italiani che hanno combattuto con uniforme tedesca, finora devo dire senza grandi risultati, ma ho tutt'altro che perso le speranze. L'ultimo sondaggio che ho fatto a Washington, sperando di trovare le loro tracce negli atti del Provost Marshal General che si occupava dei prigionieri di guerra fatti dagli alleati, sono stati infruttuosi. Mi è stato suggerito di andare a cercare nei diari di guerra delle unità alleate che si scontrarono con questi italiani durante l'avanzata, il che è estremamente difficile perché, a parte il loro impiego sul fronte di Nettuno, i due reparti SS italiani, per il resto non sappiamo esattamente dove, almeno dove la maggior parte di loro era collocata. Quindi, sotto questo punto di vista, diciamo, per la via indiretta delle fonti alleate, la ricerca mi sembra ancora abbastanza complicata. Tuttavia, adesso mi limiterò più che a parlare delle prospettive e delle possibili difficoltà di questa ricerca, mi limiterò a illustrarvi ciò che emerge da questo fondo RSI conservato nell'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma. Fra l'altro colgo l'occasione per ringraziare Lutz Klinkhammer che per primo ebbe la possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza di questo fondo, poi appunto cominciarono lunghe trattative per ottenerne l'apertura. Alla fine, qualche mese fa, mi è arrivata l'autorizzazione ministeriale per poter lavorare su questo fondo. Si tratta di 60 buste che vennero catturate da ufficiali dello Stato Maggiore del Regio Esercito nel 1945 nella sede di campagna di Trescore, in provincia di Bergamo, dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della RSI. Non venne microfilmato agli alleati, questo è il motivo per cui finora non avevamo potuto sapere che cosa contenesse. È chiaro che i riferimenti di questo fondo per quello che riguarda i possibili confronti sono essenzialmente le carte del Ministero delle Forze Armate che sono conservate nell'Archivio Centrale dello Stato, i bollettini della Guardia Nazionale Repubblicana che ho già citato e le carte delle Militärkommandanturen in tedesche. Credo che l'importanza di questo nuovo fondo stia soprattutto nella sua capacità di dialogare, per così dire, con altre fonti in modo da ricostruire sotto diversi punti di vista alcuni episodi in particolare. Prima di dirvi ciò che contiene questo fondo, vorrei illustrarvi un attimo ciò che non contiene. Non contiene appunto, tutto sommato, la cosa che forse io stavo cercando in maniera prioritaria, partendo appunto dal problema degli aderenti fra gli internati militari, ovvero sia informazioni sui militari italiani inquadrati nella Wehrmacht, nelle Waffen SS. Perché? Perché nonostante gli sforzi, lo Stato Maggiore di Graziani non riuscì a sapere dai tedeschi quanti italiani combattessero sotto le loro bandiere e dove fossero collocati. Questa è un'ulteriore prova della assoluta subalternità, e forse subalternità è anche un eufemismo, della RSI nei confronti di quello che è stato definito efficacemente l'alleato brutale. Ci sono alcune indicazioni su queste forze italiane che non dipendevano dallo Stato Maggiore della RSI, soprattutto per quello che riguarda i Balcani. Ci sono alcune relazioni, per esempio, sull'impiego di alcuni battaglioni di camicie nere che erano passate ai tedeschi immediatamente dopo l'armistizio. Scarsissime invece sono le informazioni per quello che riguarda la Francia e nulle quelle che riguardano il fronte orientale. Prima di entrare nei dettagli, vorrei fare qualche osservazione generale sul problema di questo esercito. Mussolini, come è noto, ci teneva molto a che fra gli internati militari italiani ci fosse una consistente adesione alla nuova Repubblica Sociale. Canevari riferisce appunto di una telefonata fra Mussolini e Keitel dell'ottobre, se non ricordo male, o comunque se non è ottobre, novembre, scusate adesso l'imprecisione, del 43, nella quale lui disse: io mi riterrei umiliato se fra gli internati militari non ci fossero almeno 50.000 disposti ad aderire e a combattere nelle nuove divisioni che io voglio formare. E di fatto questa adesione non ci fu. Il numero di militari internati italiani che finirono poi nei campi di addestramento delle quattro divisioni italiane che vennero addestrate in Germania è assolutamente bassissimo, non supera i 20.000. Quindi sostanzialmente c'è questo quadro generale di fallimento che è aggravato fra l'altro una specie di concorrenza selvaggia che ci fu all'interno delle strutture della Repubblica di Salò per ottenere una forza militare. Ci fu questa fortissima concorrenza fra Camicie Nere, GNR ed Esercito, nella quale fra l'altro l'Esercito fu regolarmente perdente. Per esempio in questi atti dello Stato Maggiore di Graziani si trovano continuamente lamentele sull'arruolamento fatto da Decima Massa, GNR, Camicie Nere ai danni dei militari inquadrati nell'Esercito. Un arruolamento che diventa vincente soprattutto perché il soldo dei militari inquadrati nelle forze armate repubblicane è molto più basso di quello che ricevono quelli della GNR o degli altri reparti. In maniera un po' impropria ma forse efficace si potrebbe parlare di una policrazia selvaggia all'interno della struttura della Repubblica di Salò, ammesso che ci fosse una qualunque crazia, comunque una qualunque forza. Vediamo ora un attimo da vicino che cosa contiene questo fondo. Il primo blocco di documenti, che possiamo in realtà considerare completo, e tutto sommato le lacune interne di questo fondo non sono veramente rilevanti in generale. Dunque, il primo blocco di documenti è costituito dai diari storici dello Stato Maggiore e dei suoi vari uffici, segreteria, operazioni, arruolamenti e così via. Questi diari storici allora così sono abbastanza noiosi, riferiscono semplicemente l'attività burocratica, ma in molti casi contengono alcune informazioni per noi direi piuttosto importanti, in particolare per quello che riguarda i dati sulla leva, quindi possiamo integrare e completare in maniera convincente i dati forniti dal GNR e abbiamo quindi dati sulla leva praticamente provincia per provincia, naturalmente non soltanto su coloro che si presentano ma anche sui renitenti e su coloro che poi disertano. Inoltre abbiamo i quadri mensili della dislocazione dei vari reparti, certo numericamente non consistenti, dipendenti dallo Stato Maggiore dell'Esercito, e soprattutto lunghe relazioni sullo stato di arruolamento delle quattro divisioni che si trovano in Germania e che poi cominceranno a rientrare in Italia a partire dall'estate del 44. Da queste relazioni si rilevano essenzialmente due cose. Da un lato la scarsa qualità del personale reclutato fra gli internati militari. Il colonnello Fedi, che fa questa lunga relazione di 40 pagine, la più lunga di questo gruppo, dice sostanzialmente che la maggior parte degli ufficiali che hanno aderito l'ha fatto per puro opportunismo, semplicemente sperando poi che una volta tornata in Italia riuscirà a imboscarsi ed evitare lo scontro. Un altro elemento che danneggia il morale di questi uomini, bisogna tenere presente che poi non si trattava soltanto di ex internati, anzi gli ex internati in una minoranza, bensì in buona parte poi di italiani che avevano risposto alla leva, al bando di Graziani, che erano stati mandati in Germania in addestramento. Bene, gli elementi negativi che danneggiano il morale di queste truppe sono essenzialmente la scarsa qualità dell'armamento, infatti si reclama, si richiede ai tedeschi di fornire un armamento migliore e un certo atteggiamento, diciamo, di disprezzo che hanno i tedeschi soprattutto nei confronti degli ufficiali. C'è questa costante del contrasto che viene in qualche modo fomentato dagli addestratori tedeschi fra ufficiali e soldati di truppa italiani. Questo dunque per quello che riguarda i diari storici dello Stato Maggiore e degli uffici direttamente dipendenti. C'è poi un altro gruppo di diari storici che sono stati prodotti dai vari comandi militari regionali e provinciali. Alcuni ancora una volta sono abbastanza noiosi, una delle costanti è il bollettino meteorologico. Altri invece sono particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda gli scontri con i partigiani, il numero dei caduti, naturalmente per quello che riguarda i partigiani va visto con molta cautela, ma quando si tratta invece dei caduti repubblichini possiamo considerarla una fonte attendibile. Fra i tanti potrei segnalare il diario del secondo comando militare provinciale, quello di Cuneo, che contiene una relazione piuttosto interessante sui fatti di Boves. Accanto a questi diari storici, quindi, che riguardano gli organismi territoriali su territorio nazionale, ci sono, come vi ho detto, alcune relazioni su reparti di camicie nere che combattevano nei Balcani. Se poi ci sarà un attimo di tempo, forse potrò citare qualcosa. Per quello che riguarda reparti speciali operanti in Italia, una particolare attenzione va dedicata ai reparti impiegati in funzione di controguerriglia. In particolare alcuni reparti autonomi di bersaglieri, il centro addestramento reparti speciali, il raggruppamento arditi ufficiali e l'unità COGU, cioè di controguerriglia. E naturalmente i diari storici di queste unità completano ciò che noi sappiamo settore per settore sugli scontri fra partigiani, forze repubblichine e forze tedesche. Sono anche interessanti, anche se è un elemento in qualche modo marginale per la ricerca, però sono anche molto interessanti una serie di cartine che per esempio ricostruiscono in vari momenti la dislocazione delle forze tedesche e repubblichine, quindi per chi debba fare uno studio approfondito su alcuni settori sono sicuramente delle fonti molto utili. In particolare la documentazione è molto ricca per quello che riguarda il Piemonte, soprattutto su Torino e Alessandria c'è veramente un materiale piuttosto abbondante. Ci sono poi altre fonti che riguardano l'attività partigiana, in particolare i notiziari decadali compilati dal SID, che sono particolarmente dettagliati e talora la loro minuzia tenderebbe a farli considerare irrilevanti, ma ancora una volta ritengo combinate con altre informazioni possono darci un quadro in qualche modo, oserei dire, definitivo dell'attività partigiana in alcune zone. Un'altra fonte interessante prodotta appunto dal SID sono i notiziari prima mensili e poi quindicinali che abbiamo quasi completi fino alla fine del 1944, tranne una lacuna fra agosto e settembre, che non comprende, voglio dire, entrambi i mesi, ma alcuni punti di questi mesi. Questi notiziari presentano una panoramica della corrispondenza militare e civile che viene censurata. E quindi, a parte che possono essere incrociati con fonti analoghe che abbiamo dal SID del Regio Esercito, forniscono un elemento ulteriore per capire lo stato d'animo della popolazione nell'Italia occupata. Infine ci sono alcuni documenti che interessano soprattutto, a mio avviso, gli specialisti che si occupano di questo settore, i quali riguardano l'impiego di reparti georgiani, russi e turcmeni in Piemonte, in Lombardia, in Toscana, in Romagna e nel Friuli. Questi reparti erano particolarmente impiegati per la protezione e controllo di ponti ferroviari e di gallerie. E infine una relazione sull'impiego di questo secondo battaglione SS italiano sul fronte di Nettuno. Vi dirò alcune brevi cose su queste SS italiane. Sostanzialmente risultano tre cose. La prima è che questi reparti non vengono mai impiegati in maniera autonoma. C'è sempre una costante attenzione da parte dei tedeschi a inserire questi reparti in mezzo ad altri reparti tedeschi, perché c'è una evidente, dichiarata diffidenza nei confronti della loro affidabilità. Dal punto di vista dell'impiego militare, il giudizio è tutto sommato medio. Si apprezza notevolmente il loro impegno e il loro spirito, il che contrasterebbe in un certo modo con la diffidenza iniziale, se ne criticano soprattutto le capacità tecniche per quanto riguarda l'uso delle mitragliatrici e si sostiene che bisognerebbe addestrarli ulteriormente per portarli allo standard tedesco. La terza cosa che si rivela sono le altissime perdite di questo reparto. Le perdite non vengono quantificate, ma si capisce che sono all'incirca sul 50% su circa 600 uomini. Quindi sicuramente l'impiego di queste SS italiane sul fronte di Nettuno fu particolarmente sanguinoso per loro. Un'ultima cosa, penso che il tempo non mi consente di parlarvi di questi reparti di camicie nere nei Balcani, peraltro non sono cose di grandissimo interesse, in quanto si parla essenzialmente del loro impiego in lavori di terrazzamento, in lavori difensivi e così via, quindi in ci servono soprattutto per sapere quali reparti si trovavano nei Balcani e dove erano dislocati, ma di fatto non è che abbiano avuto un impiego particolarmente interessante. L'unica cosa interessante che si può dire, e questo si riferisce al discorso che facevamo ieri sui rapporti diplomatici fra italiani della RSI e tedeschi, è che lo Stato Maggiore cerca di far rientrare queste truppe in Italia e non ci riesce, cioè i tedeschi proprio fanno completamente opposizione a questa iniziativa, quindi appunto il controllo che ha lo Stato Maggiore di Salò sulle proprie truppe è praticamente nullo. L'unica cosa invece che per concludere vorrei citare è una relazione di una ispezione fatta nel dicembre del 1944 ai reparti italiani della FLAC che si trovavano in Germania. Il loro numero di questi italiani era molto alto, erano circa 70.000, e questa è la prima ispezione, guardate bene, nel dicembre del 1944 per la prima volta un ufficiale della Repubblica di Salò può fare il giro di questi reparti, alcuni di questi reparti in Germania, e le condizioni di vita di questi italiani, che peraltro appunto non erano internati, e quindi avrebbero dovuto essere trattati in qualche modo abbastanza meglio, sono assolutamente pessime. Questi italiani si lamentano di essere adibiti a lavori di sterro, a lavori pesanti, spesso di non servire appunto nell'artiglieria contraerea come era stato loro promesso, come era stato previsto. Vi leggo soltanto un pezzetto di questa relazione che riguarda appunto lo stato d'animo. E dice: lo stato d'animo è molto basso per le seguenti cause. Mentre erano partiti dall'Italia con la promessa di andare a compiere in Germania un periodo di addestramento all'incirca di 100 giorni, dopo il quale sarebbero rientrati in patria, sono stati invece adibiti a lavori manuali di scarico, di sgombero delle macerie ed altro, a fianco di prigionieri russi, di condannati per reati penali e politici e di ex carabinieri. Poi non amano la cucina tedesca, sono costretti a lavorare moltissimo, praticamente quanto gli ex internati, perché la sveglia è alle 4 e 3 quarti del mattino e si continua a lavorare fino alle 17:30 e anche la domenica si lavora. Poi la mancanza assoluta di notizie, cioè non esiste un traffico postale efficiente, e l'assoluta incapacità di ottenere una licenza per tornare in Italia. Quindi noi in fondo sappiamo ben poco sulle condizioni di tutte queste decine di migliaia di italiani mandate in Germania per essere inserite nella FLAC. Queste sono le prime informazioni che abbiamo. Ora, per quanto riguarda la possibilità di proseguire la ricerca, io sono, come vedete anche dal taglio di questa relazione, soltanto all'inizio, e ho pensato che il mio intervento si giustificasse soltanto come modo di mettere a vostra disposizione, di darvi delle indicazioni sull'esistenza di questo fondo e sulle possibilità che offre. Però se noi vogliamo approfondire più in generale il problema della collaborazione militare della RSI col Terzo Reich, sicuramente dobbiamo andare oltre, cioè il nucleo centrale, anche quantitativamente, è il problema degli italiani che hanno combattuto con uniforme tedesca. A mio avviso le possibilità più interessanti sono offerte dagli archivi alleati. Il mio primo sondaggio, come vi ho detto all'inizio di questo intervento, è stato infruttuoso, però mi sembrerebbe strano, visto che poi era previsto appunto un trattamento speciale per i non tedeschi catturati in uniforme tedesca, mi sembrerebbe strano che non ci siano delle statistiche, delle fonti, per quanto difficile da trovare, sulla loro presenza. L'altra strada da seguire è quella dell'epurazione, cioè sapere se e in che modo coloro che hanno combattuto nell'esercito tedesco, a parte adesso il problema di coloro che erano inseriti nelle forze armate della RSI, se coloro che hanno combattuto nell'esercito tedesco sono stati identificati e come sono stati trattati dopo la guerra. Colpì molto quando lessi il libro di Ricciotti Lazzaro, peraltro, come sappiamo, non privo di imprecisioni, ma comunque un libro in cui ha cercato di fare il punto sulla 29esima divisione SS italiana, appunto questi 20.000, come dice, che giuravano fedeltà a Hitler, bene, che praticamente le fonti che abbiamo sono molto scarse, molto spesso bisogna ricorrere alla stessa produzione giornalistica di questa SS, che poi è anche sostanzialmente la base di quello che ha scritto Pisanò nelle sue due opere sull'esercito di Salò. Quindi in qualche modo la maggior parte di queste persone, in particolare le SS, sono spariti, al contrario di quanto invece è successo in Francia. E sarebbe interessante riuscire a saperne di più, e se non riuscissimo a saperne di più, sarebbe interessante capire perché non se ne è saputo più nulla. Grazie.